Il giorno dopo Lady Harriet si recò a cavallo a Hollingford e per soddisfare la propria curiosità fece visita alle signorine Browning e introdusse l'argomento. Non avrebbe parlato del pettegolezzo che aveva udito con nessuno che non fosse amico sincero di Molly. Se Mr. Sheepshanks avesse alluso alla cosa mentre lei cavalcava insieme al padre, lo avrebbe tacitato immediatamente con una delle espressioni altezzose che sapeva bene come assumere. Però sentiva di dover conoscere la verità e di conseguenza esordì così, senza mezzi termini, con Miss Browning. Cos'è tutto ciò che sento dire della mia piccola amica Molly Gibson e di Mr. Preston? Oh, Lady Harriet, l'avete saputo? Ci dispiace tanto. Vi dispiace di cosa? Penso, e chiedo scusa a vostra signoria, che non dovremmo dire altro finché non sapremo di cosa voi siete informata, replicò Miss Browning. No, fece Lady Harriet con una breve risata. Io non vi dirò ciò che so finché non sarò certa che voi ne sapete di più. Allora, se volete, faremo uno scambio. Temo che non ci sia da ridere per la povera Molly, commentò Miss Browning scuotendo il capo. La gente dice certe cose, ma io non ci credo. Certo che no, sbottò Miss Phoebe quasi piangendo. È molto bello da parte tua, Febe, dichiarare di non crederci, ma vorrei sapere chi è stato a convincere me con grande dolore e mio malgrado. Ecco, io ti ho solo riferito i fatti che mi ha raccontato Mrs. Goodenough, sorella, ma di certo se tu avessi visto la povera e paziente Molly, come l'ho vista io, seduta in un angolo della stanza a sfogliare bellezze d'Inghilterra e del Galles fino alla nausea, senza che nessuno le rivolgesse una parola. E alla fine della serata era gentile, dolce, come sempre, anche se forse un po' pallida. Fatti o non fatti, io non crederò nessuna diceria contro di lei. E così sedette Miss Febe a sfidare i fatti fra le lacrime. E come ho detto prima, io condivido del tutto la vostra opinione, affermò Lady Harriet. Ma come spiega vostra signoria, gli incontri con Mr. Preston in ogni sorta di luogo improbabile, all'aria aperta? Chiese Miss Browning, la quale, perché le sia resa giustizia, sarebbe stata fin troppo lieta di unirsi a chi parteggiava per Molly, se contemporaneamente avesse potuto, per logica deduzione, proteggere la sua reputazione. Sono arrivata al punto di mandare a chiamare suo padre e raccontargli ogni cosa. Pensavo che come minimo avrebbe preso Mr. Preston a frustate, ma sembra che non ci abbia neanche fatto caso. Dunque possiamo essere certe che ha conoscenza di una spiegazione della quale noi non siamo al corrente, spiegò risoluta Lady Harriet. Dopotutto, potrebbero esserci 150 spiegazioni perfettamente naturali e giustificabili. Mister Gibson non ne conosceva neanche una quando ho ritenuto mio dovere parlargli, obiettò Miss Browning. Beh, supponiamo che Mister Preston sia fidanzato con Miss Kirkpatrick e Molly sia la confidente messaggera. Non vedo come la supposizione di vostra signoria possa cambiare di molto la vergogna, perché se egli è fidanzato onorevolmente con Miss Kirkpatrick, non la va a trovare apertamente a casa di Mister Gibson? Perché Molly si presta dei sotterfugi? Non si può avere una spiegazione per tutto, protestò Lady Harriet con una certa impazienza, perché la ragione le si opponeva. Però io scelgo di avere fiducia in Molly Gibson. Sono certa che non ha commesso niente di molto sbagliato. Ho una gran voglia di andare a trovarla. Mrs. Gibson è confinata nella sua camera con la sua orribile influenza e portarla con me a fare un giro di visite in questa piccola città piena di pettegole, da Mrs. Goodenough, o meglio, Bad Enough, che sembra avere divulgato tutte queste storie. Ma oggi non ho tempo. Devo incontrare papà alle 3 e ora sono le 3. Ricordate solo, Miss Febe, che siamo io e voi contro il resto del mondo in difesa di una fanciulla in difficoltà. Don Chisciotte e Sancho Panza, si disse, correndo a passo leggero più delle vecchie scale di Miss Browning. Ora, non penso sia bello da parte tua, Febe, ricominciò Miss Browning piuttosto scontenta quando furono di nuovo sole. Prima mi convinci mio malgrado e mi rendi molto infelice, e io sono costretta a fare cose sgradevoli, tutto perché tu mi hai fatto credere che certe affermazioni fossero vere. E poi volti gabbana e piangi, e dici di non credere una sola parola, e mi fai sembrare un orco, una calunniatrice matricolata. No, è inutile, non ti voglio ascoltare. Così lasciò Miss Febe in lacrime e si chiuse a chiave nella propria camera. Nel frattempo, Lady Harriet cavalcava verso casa al fianco del padre, apparentemente ascoltando tutto ciò che lui diceva, ma in realtà meditando sulle probabilità e le possibilità che potessero spiegare questi strani incontri tra Molly e Mr. Preston. Fu uno di quei casi in cui si parla del diavolo e spuntano le corna. A una svolta della strada, infatti, videro poco lontano a loro Mr. Preston, che procedeva nella loro direzione sul suo bel cavallo, tutto tirato lucido nel suo abbigliamento da equitazione. Il conte, col suo soprabito liso, il suo vecchio cavallino marrone, lo chiamò allegramente. Ah, ecco Mr. Preston. Buona giornata a voi. Volevo proprio parlarvi di quella striscia di terra da pascolo sulla home farm. John Brickhill vuole ararla e coltivarla. Non sono neanche 2 acri al massimo. Mentre i due discutevano di quell'appezzamento, Lady Harriet prese la sua decisione. Non appena il padre ebbe concluso, ella disse: Mr. Preston, forse vorrete concedermi di porvi una o 2 domande per liberarmi di un cruccio, perché al momento sono un po' perplessa. Certo, sarò fin troppo lieto di fornirvi qualche informazione in mio possesso. Ma un attimo dopo aver pronunciato quella frase, gli tornò in mente il discorso di Molly, ovvero che avrebbe riferito la vicenda a Lady Harriet. Però le lettere erano state restituite e l'affare ormai era risolto. Lei era risultata vincitrice e lui sconfitto. Di certo la ragazza non poteva essere stata così ingenerosa da rivolgersi a Lady Harriet nonostante tutto. Girano voci su di voi e Miss Gibson tra le comari di Hollingford. Dobbiamo farvi le congratulazioni per il vostro fidanzamento con la signorina. Ah, tra l'altro, Mr. Preston, avremmo dovuto farvele prima, sottolineò in fretta allegramente Lord Kemnor. Ma la figlia puntualizzò, tranquilla. Mr. Preston non ci ha ancora confermato se queste voci sono fondate, papà. Lo guardò con l'aria di una persona che aspetta una risposta, e una risposta sincera. Non sono così fortunato, replicò il giovane, tentando di far sembrare irrequieto il suo cavallo senza attirare l'attenzione. Dunque, posso smentire questa diceria? Domandò quieta Lady Harriet. O c'è ragione di credere che col tempo possa avverarsi? Lo chiedo perché queste voci, se non sono fondate, sono pericolose per le giovani donne. Tengono alla larga altri possibili innamorati, spiegò Lord Kemnor, mostrandosi molto compiaciuto del proprio discernimento. Lady Harriet insistette. E io ho un grande interesse per Miss Gibson. Mr. Preston capì dal suo atteggiamento che ne avrebbe patito le conseguenze, come disse a se stesso. La domanda era: quanto o quanto poco sapeva Lady Harriet? Non ho aspettative o speranze di nutrire per Miss Gibson un interesse più stretto di quanto provi al momento presente. Sarò lieto se questa risposta diretta libererà Vostra Signoria dalla sua perplessità. Non poté evitare l'accenno di insolenza che accompagnò queste ultime parole. Non riguardava le parole in quanto tali, né il tono in cui furono pronunciate, ma c'era un senso generale di impertinenza. La risposta sottintendeva il dubbio sul fatto che Lady Harriet avesse il diritto di interrogarlo come aveva fatto e suggeriva anche un certo atteggiamento di sfida. Ma questo tocco di arroganza irritò il temperamento di Lady Harriet, che non era tipo da trattenersi in nessuna circostanza, in ragione dell'opinione di qualcuno a lei inferiore. Insomma, signore, siete consapevole del danno che potete arrecare alla reputazione di una giovane donna se la incontrate e la trattenete in lunghe conversazioni mentre lei sta camminando sola, senza nessuno che la accompagni? Date adito! Avete dato adito a delle chiacchiere! Mia cara Harriet, non stai esagerando. Tu non sai. Mr. Preston poteva avere intenzioni, intenzioni non riconosciute. No, milord. Non ho intenzioni riguardo a Miss Gibson. Lei è forse una signorina molto meritevole, non ho dubbi che lo sia. Lady Harriet sembra determinata a spingermi in una posizione in cui io non posso far altro che definirmi. Non è una condizione invidiabile, ma non è gradevole riconoscerlo. Ma in effetti è quello che sono: un innamorato piantato in asso dopo aver ricevuto l'incoraggiamento. Sono stato abbandonato da Miss Kirkpatrick dopo un fidanzamento abbastanza lungo. I miei colloqui con Miss Gibson non sono stati del genere più piacevole, come potrete dedurre se vi dico che lei è stata, credo, l'istigatrice. Di certo è stata colei che ha messo in pratica quest'ultimo gesto di Miss Kirkpatrick. la curiosità di vostra signoria, enfatizzando il termine curiosità, è soddisfatta da questa mia confessione piuttosto mortificante. Harriet, mia cara, ti sei davvero spinta troppo in là. Non abbiamo alcun diritto di indagare negli affari personali di Mr. Preston. Non ne ho più, come Lady Harriet, con un sorriso di vittoriosa franchezza, il primo sorriso che accordava Mr. Preston da molti giorni, dal tempo in cui anni prima, facendo affidamento sulla propria avvenenza, egli aveva assunto un tono di galante familiarità con lei, facendole complimenti personali che avrebbe potuto rivolgere a una donna appartenente al suo stesso rango. Ma mi scuserò, spero, proseguì, ancora con quei modi aggraziati che fecero capire a Mr. Preston di avere ora assunto un posto più alto nella sua stima di quello che occupava all'inizio di quella conversazione. Quando saprà che le lingue indaffarate delle signore di Hollingford parlano della mia amica, Miss Gibson, nel modo più ingiustificabile e che traggono ingiustificate inferenze da episodi del suo rapporto con Mr. Preston, la natura del quale egli ha appena chiarito, accordandomi così un vero favore. Penso di non dover neppure chiedere a Lady Harriet di reputare confidenziale questa mia spiegazione, disse Mr. Preston. Ma certo, garantì il conte, chiunque lo capirà. Poi corse a casa e riferì per filo e per segno a Lady Kemnor e a Lady Cuxhaven il dialogo tra Lady Harriet e Mr. Preston, nella massima confidenza, naturalmente. Lady Harriet dovette sorbirsi un bel po' di lezioni sulle buone maniere, sulla dovuta dignità, per qualche giorno dopo l'accadimento. Si consolò però facendo visita a casa Gibson e quando seppe che Mrs. Gibson, che era ancora convalescente, stava dormendo, non ebbe alcuna difficoltà a portare con sé per una passeggiata l'inconsapevole Molly, che Lady Harriet guidò in modo tale da passare 2 volte per la strada principale del villaggio, ciondolare per una mezz'ora da Grinstead e terminare con una visita alle signorine Browning che, con grande dispiacere di Lady Harriet, non erano in casa. Forse è meglio così, si disse, dopo averci pensato un po'. Lascerò il mio biglietto e ci scriverò sotto il vostro nome, Molly. Molly era un po' sorpresa dal modo in cui Lady Harriet si era impadronita di lei, come di un oggetto inanimato per tutto il pomeriggio, ed esclamò: Vi prego, Lady Harriet. Io non lascio mai biglietti, non li ho neppure, e poi fra tutti, proprio alle signorine Browning. Insomma, entro ed esco da qui ogni volta che lo desidero. Non importa, piccola mia, oggi farete tutto come si deve, e in obbedienza alla più severa etichetta. E ora, dite a Mrs. Gibson di venire a passare un'intera giornata alle torri, le manderemo la carrozza non appena ci farà sapere di essere abbastanza in forze per venire. Anzi, sarebbe meglio se si fermasse qualche giorno. In questa stagione dell'anno non è bene che una convalescente esca di sera neanche in carrozza. Così, disse Lady Harriet, ferma sui gradini bianchi dell'ingresso della casa delle signorine Browning e tenendo la mano di Molly mentre la salutava. Ditele, cara, che in parte sono venuta per vedere lei, ma che trovandola addormentata sono uscita insieme a voi. E non dimenticate di dirle di venire da noi per un cambiamento d'aria. La mamma ne sarà lieta, sinceramente, e della carrozza e tutto il resto. E allora, arrivederci. Abbiamo fatto un buon lavoro. È meglio di quanto voi possiate immaginare, aggiunse, anche se Molly ormai non la sentiva più. Hollingford non è il luogo che penso che sia. Se Molly non torna nei suoi favori dopo che mi sono portata a passeggio e la bambina per tutto il giorno. Capitolo 50. Cinzia con le spalle al muro. Mrs. Gibson recuperò le forze lentamente dopo la sua influenza e prima che stesse abbastanza bene da accettare l'invito di Lady Harriet alle torri, Cinzia tornò da Londra. Se Molly aveva pensato che il modo in cui era partita non fosse stato proprio affettuoso e sollecito come avrebbe dovuto, se un simile pensiero aveva attraversato per un istante la mente di Molly, ella se ne pentì non appena Cinzia tornò e le due ragazze si ritrovarono faccia a faccia e con tutto l'amore e la familiarità di un tempo salirono le scale tenendosi reciprocamente un braccio intorno alla vita e sedendosi insieme in salotto, mano nella mano. L'atteggiamento generale di Cinzia era più quieto di com'era stato quando il peso del suo sgradevole segreto gravava sui suoi pensieri, facendola apparire a volte avvilita, a volte incostante. Dopotutto cominciò. C'è un'aria di casa in queste stanze che è molto piacevole. Ma vorrei poterti vedere più in forza, mamma. Questa è la sola cosa triste. Molly, perché non mi hai chiamata? Volevo farlo, rispose Molly. Ma io non gliel'ho permesso, spiegò Mrs. Gibson. Stavi molto meglio a Londra che qui, perché non avresti potuto darmi alcun beneficio e le tue lettere erano così belle da leggere. E ora Helen sta meglio e anch'io mi sono quasi rimessa. E tu sei tornata proprio al momento giusto, perché sono tutti presi dal ballo di beneficenza. Ma quest'anno noi non andremo, mamma, obiettò risolutamente Cinzia. È il 25, no? E sono certa che tu non starai abbastanza bene da accompagnarci. Sembri davvero determinata a farmi star peggio di quanto sia, figliola, protestò Mrs. Gibson piuttosto lamentosa, perché era una di quelle persone che quando la malattia è una sciocchezza, la esagerano, ma quando è una cosa seria non sono disposta a sacrificare alcun divertimento per ammetterne la natura. In quella circostanza fu un bene che suo marito avesse la saggezza e la sufficiente autorità per proibirle di andare a quel ballo, al quale lei tanto desiderava partecipare. Ma la conseguenza di quel divieto fu un aumento della tristezza domestica e del malumore, che sembrarono contagiare anche Cinzia, proprio la brillante garrulura Cinzia. E spesso fu arduo per Molly tenere alto lo spirito delle altre due oltre al proprio. La cattiva salute poteva spiegare la depressione di Mrs. Gibson. Ma perché Cinzia era così silenziosa, per non dire sospirosa? Molly non riusciva a trovarne una ragione ed era ancora più perplessa dal fatto che di tanto in tanto Cinzia si appellava a lei perché lodasse una qualche sconosciuta e misteriosa virtù che aveva dimostrato. E Molly era abbastanza giovane da credere che dopo un qualunque esercizio di virtù, l'umore si rallegra, confortato dall'approvazione data dalla coscienza. Ma per Cinzia le cose non stavano così. A volte, quando era particolarmente apatica e abbattuta, diceva: Ah, Molly, per un po' dovrei lasciare che la mia bontà resti a riposo. Quest'anno ha dato un tale meraviglioso raccolto. Mi sono comportata così bene, se tu sapessi tutto. Oppure, davvero, Molly, la mia virtù deve essere scesa dal cielo. A Londra è stata messa a dura prova e trovo che somiglia a un aquilone che, dopo aver veleggiato per un po', improvvisamente viene giù e si impiglia in una sorta di rovi di arbusti spinosi. Questa è un'allegoria, a meno che tu ti costringa a credere alla mia straordinaria bontà mentre ero lontana, il che mi dà una specie di diritto a scontrarmi ora con tutti i rovi e le spine della mamma. Ma Molly aveva avuto una certa esperienza all'epoca della faccenda con Mr. Preston, a proposito del vizio di Cinzia di fare continuamente riferimento a un mistero del quale non voleva parlare. E benché a volte la sua curiosità fosse stuzzicata, le allusioni di Cinzia al fatto che sotto ci fosse qualcosa in più tendevano a incontrare orecchie ormai sorde. Un giorno il mistero ruppe il suo guscio e uscì fuori nella forma della proposta di matrimonio che Cinzia aveva ricevuto da Mr. Anderson e che aveva rifiutato. Tutto considerato, Molly non poteva apprezzare l'eroica bontà così spesso menzionata. La rivelazione del segreto avvenne finalmente in questo modo. Mrs. Gibson faceva colazione a letto, era così da quando aveva avuto l'influenza, quindi le sue lettere personali venivano sempre portate di sopra sul vassoio della colazione. Una mattina ella entrò in salotto prima del solito, con in mano una missiva aperta. Ho ricevuto una lettera dalla zia Kirkpatrick, Cinzia. Mi manda i miei dividendi. Lo zio è così occupato. Ma Cinzia, cosa intende con questo? Porgendole la lettera e indicando con il dito un certo paragrafo. Cinzia ripose la sua retina e guardò lo scritto. All'improvviso il suo volto si fece scarlatto, poi di un pallore mortale. Osservò Molly come per farsi coraggio grazie alla sua espressione forte e serena. Intende dire, mamma, posso anche rivelarvelo subito, che Mr. Anderson mi ha chiesto di sposarlo mentre ero a Londra. E io l'ho rifiutato. Ho rifiutato! E non mi hai detto nulla! Hai lasciato che lo venissi a sapere per caso. Cinzia, penso veramente che tu non sia affatto gentile. E di grazia, cosa ti avrebbe indotto a respingere Mr. Anderson? Un giovanotto così raffinato, un simile gentiluomo. Tuo zio mi ha riferito che possiede un'ottima fortuna personale, oltretutto. Mamma, dimentichi che ho promesso di sposare Roger Hamley? Ribatté quieta Cinzia. No, certo che no. Come posso dimenticarlo? Con Molly che non fa altro che farmi risuonare nelle orecchie la parola fidanzamento. Ma insomma, se si considerano tutte le incertezze, e poi alla fine non era proprio una promessa definita. Sembra quasi che lui desiderasse che accadesse qualcosa di questo tipo. Di che tipo, mamma? Chiese Cinzia bruscamente. Beh, del tipo di una proposta così più vantaggiosa. Sicuramente lui sapeva che avresti potuto cambiare idea e incontrare qualcuno che ti piaceva di più. Hai visto così poco del mondo? Cinzia fece un gesto stizzoso, come per interrompere la madre. Non ho mai detto che mi piacesse di più. Come puoi parlare in questo modo, mamma? Io sposerò Roger e basta, non se ne parli più. Si alzò e lasciò la stanza. Sposerà Roger. Questo è molto bello. Ma che ci garantisce che tornerà vivo? E se anche fosse, di che cosa vivranno? Vorrei sapere. Non rimpiango che non abbia accettato Mr. Henderson, anche se sono sicura che lui le piaccia. E il vero amore deve fare il suo corso e non essere ostacolato. Ma non c'era bisogno che lo rifiutasse proprio del tutto, finché, beh, finché non vedremo cosa accadrà. E poi io sono così debole. Mi ha fatto venire le palpitazioni. Penso che Cinzia sia stata davvero insensibile. Certamente, iniziò Molly. Poi però si ricordò che la matrigna non era affatto in forze e non era in grado di sopportare una giusta contraddizione senza irritarsi. Così cambiò discorso per suggerire dei rimedi per le palpitazioni e frenò la propria impazienza a esprimere indignazione per l'idea di commettere un'ingiustizia nei confronti di Roger. Ma quando furono sole e Cinzia riprese il discorso, Molly fu meno pietosa. Cinzia disse: Ecco, Molly, ora sai tutto. Ho tanto desiderato parlartene, però per qualche ragione non ci sono riuscita. Immagino sia stata una ripetizione del caso di Mr. Cox, commentò Molly seria. Tu sei stata simpatica e lui ha capito qualcosa di più. Non so, sospirò Cinzia, cioè, non so se sono stata simpatica o no. Lui era molto gentile, molto piacevole, ma io non mi aspettavo che finisse tutto in questo modo. E comunque è inutile ripensarci. No, convenne semplicemente Molly, perché nella sua testa la persona più gradevole e più gentile del mondo, in confronto a Roger, non era niente. Lui si difendeva da solo. Le parole successive di Cinzia, che non arrivarono in fretta, riguardavano un argomento del tutto differente e furono pronunciate con un certo dispetto. Né lei fece più alcuna allusione, con scherzosa tristezza, ai suoi recenti sforzi di essere virtuosa. Dopo qualche tempo, Mrs. Gibson fu in grado di accettare l'invito, spesso reiterato, a passare un giorno o due alle torri. Lady Harriet le aveva detto che sarebbe stata una gentilezza nei confronti di Lady Camerlor andare a farle compagnia nella vita reclusa che era ancora costretta a condurre. E Mrs. Gibson era lusingata e gratificata dalla vaga e inconscia sensazione di essere veramente desiderata. E non si illudeva, semplicemente di vivere una piacevole finzione. Lady Kemnor si trovava in quella fase della convalescenza comune a molti malati. Lo spirito vitale aveva ricominciato a fluire e con quel flusso erano tornati gli antichi desideri, progetti, piani, che nel periodo peggiore della sua malattia le erano diventati del tutto indifferenti. Ma per ora la sua forza fisica non era sufficiente a dare espressione alla sua mente vivace e la difficoltà di guidare la coppia mal assortita di corpo e volontà, l'uno debole e languido, l'altra forte e austera, rendeva spesso irritabile sua signoria. La stessa Mrs. Gibson non era abbastanza in forze per subire quel malumore senza adontarsene, così la visita alle torri non fu tutto sommato felice come ella si era aspettata. Lady Cuxhaven e Lady Harriet, entrambe consapevoli dello stato di salute e di umore della madre, ma che tuttavia vi alludevano il minimo necessario nel corso dei loro colloqui, si premurarono di non lasciare troppo a lungo Claire in compagnia di Lady Kemnor. Ma diverse volte, quando l'una o l'altra andava a cambiare la guardia, trovava Claire in lacrime, mentre Lady Kemnor insisteva su qualcosa su cui aveva meditato nelle ore mute della sua malattia, in merito alla quale sembrava ritenersi la persona nata per dare ordine al mondo. Mrs. Gibson tendeva sempre a credere che quelle osservazioni fossero rivolte con indirizzo personale a un qualche errore da lei commesso e difendeva il difetto in questione con un senso di proprietà di qualunque cosa si trattasse. Il secondo e ultimo giorno della sua permanenza alle Torri, Lady Harriet, entrando, sorprese la madre a pronunciare una arringa con tono di voce esaltato, mentre Clara appariva sottomessa, avvilita e oppressa. Qual è il problema, cara mamma? Non vi state stancando a furia di parlare? No, niente affatto. Stavo solo parlando della sciocchezza di coloro che si abbigliano in modo superiore al loro rango. Ho iniziato a raccontare a Claire delle mode dell'epoca di mia nonna, quando ogni classe aveva un proprio costume e i servi non scimmiottavano i commercianti, né i commercianti imitavano i professionisti e così via. E questa stupida donna cosa fa? Si mette a giustificarsi per come è vestita, come se io avessi accusato lei o addirittura pensato a lei. Che assurdità! Davvero, Claire, vostro marito vi ha proprio viziata, se non riuscite ad ascoltare nessuno senza pensare che stia alludendo a voi. Le persone possono sentirsi così lusingate, pensando che i loro difetti siano sempre presenti nelle menti altrui, come se credessero che il mondo sia sempre lì a contemplare le loro attrattive e le loro virtù. Mi hanno detto, Lady Kemnor, che il prezzo di questa seta era scontato. L'ho comprata alla Waterloo House alla fine della stagione, ribadì Mrs. Gibson, toccando il bellissimo abito a dispetto della voce arrabbiata di Lady Kemnor e inciampando un'altra volta stupidamente sul motivo della sua irritazione. Ancora, Claire, quante volte devo ripetervi che non pensavo a voi o ai vostri vestiti, o se vi siano costati tanto o poco. Vostro marito ha dovuto pagarli ed è un problema suo se voi spendete per il vostro abbigliamento più di quanto dovreste. Erano solo 5 ghinee per tutto l'abito, gemette Mrs. Gibson. Ed è molto grazioso, commentò Lady Harriet, chinandosi per esaminarlo e così sperando di consolare la povera donna addolorata. Ma Lady Kemnor proseguì. No, dovreste conoscermi meglio ormai. Quando penso una cosa, io la dico, non ci giro intorno. Uso un linguaggio diretto. Vi dirò dove ritengo che abbiate sbagliato, Claire, se volete saperlo. Che lo volesse o no, il discorso schietto stava per arrivare. Avete viziato questa vostra ragazza fino a che non ha più saputo cosa pensare. Si è comportata in modo abominevole con Mr. Preston e tutto questo dipende dalle lacune della sua educazione. Voi avete molta responsabilità in questo. Mamma! Mamma! Intervenne Lady Harriet. Mr. Preston non desidera che se ne parli. E allo stesso momento Mrs. Gibson esclamò. Cinzia, Mr. Preston, in un tale tono di sorpresa che se Lady Kemnor fosse stata abituata a osservare quanto i toni alla voce delle persone possono esprimere, avrebbe scoperto che Mrs. Gibson era all'oscuro della faccenda a cui lei alludeva. Per quanto riguarda i desideri di Mr. Preston, non mi ritengo in dovere di rispettarli, quando sento che il mio compito è biasimare un errore, dichiarò altezzosamente Lady Kemnor rivolgendosi a Lady Harriet. E Claire, intendete dire che non eravate al corrente del fatto che vostra figlia sia stata fidanzata con Preston per un certo periodo? Per anni, credo, e che alla fine abbia deciso di interrompere la cosa? E si è servita della figlia di Gibson? Non mi ricordo come si chiama, facendo di lei e di se stessa l'oggetto delle chiacchiere del villaggio, il bersaglio dei pettegolezzi di Hollingford. Mi ricordo che quando ero giovane c'era una ragazza che chiamavamo Jilting Jessie. Dovrete sorvegliarla, la vostra giovane signorina, altrimenti le piopperanno un nome simile. Vi parlo d'amica Claire, quando vi dico che secondo me questa vostra ragazza si caccerà ancora nei guai prima di sposarsi e di mettersi al sicuro. Non che io mi curi minimamente dei sentimenti di Mr. Preston, ma so cosa è opportuno per una giovane donna e piantare in asso un innamorato non lo è. E ora potete andarvene entrambe e mandarmi Bradley. Perché sono stanca e voglio fare un pisolino. Davvero, Lady Kemnor, volete credermi? Non penso che Cinzia sia mai stata fidanzata con Mr. Preston. C'è stato un tempo un flirt. Io temevo. Suonate per far venire Bradley, insistette Lady Kemnor stancamente. I suoi occhi si chiusero. Lady Harriet era troppo esperta degli umori della madre per non trascinare via Mrs. Gibson quasi a viva forza, mentre lei nel frattempo protestava che non riteneva ci fosse alcuna verità in quella storia, sebbene fosse stata la cara Lady Cameron a riportarla. Una volta nella propria stanza, Lady Harriet disse: «Ora, Claire, vi racconterò tutto. E penso che dovrete crederci perché è stato lo stesso Mr. Preston a informarmi. Ero venuta a sapere di una grande agitazione a Hollingford nei suoi riguardi. Lo incontrai durante un giro a cavallo e gli chiesi di cosa si trattasse. Lui evidentemente non desiderava parlarne. A nessuno fa piacere, suppongo, raccontare di essere stato piantato. Infatti ha chiesto a mio papà di non farne parola. Ma papà l'ha fatto, ed è questa la fonte delle informazioni della mamma. Come vedete, si tratta di un'ottima fonte». Ma Shin si è fidanzata con un altro uomo, davvero? E un altro, veramente un ottimo partito. Le ha appena fatto una proposta a Londra. Mr. Preston è sempre causa di problemi. Eh no, penso seriamente che in questo caso deve essere stata la vostra graziosa Cinzia a indurre un uomo, per dire due, a fidanzarsi con lei e un altro ancora a farle una proposta di matrimonio. Io non posso sopportare Mr. Preston, ma credo sia piuttosto ingiusto accusarlo di essersi fatto due rivali, i quali sono, immagino, il motivo per cui lui è stato lasciato. Non lo so, io avverto sempre un certo rancore da parte sua nei miei confronti e gli uomini hanno così tanti modi di essere vendicativi. Dovete ammettere che se lui non vi avesse incontrata, io non avrei dovuto subire la rabbia della cara Lady Cameron. Voleva solo mettervi in guardia a proposito di Cinzia. La mamma è sempre stata molto meticolosa in merito alle sue figlie. È stata molto severa nei riguardi della minima tendenza a flirtare. E Mary sarà come lei. Ma Cinzia continuerà a civettare. Io non posso farci niente. Non è rumorosa, non ridacchia, si comporta sempre come una signora. Questo deve ammetterlo chiunque. Ma ha un modo di attrarre gli uomini. Penso che l'abbia ereditato da me. E qui ella sorrise debolmente e non avrebbe respinto un complimento che confermasse la sua idea, ma non ne ricevette. Comunque le parlerò, andrò a fondo in questa faccenda. Vi prego di riferire a Lady Cameron che sono stata lusingata dal modo in cui mi ha parlato sul mio abito e tutto. D'altronde è costato solo 5 guinee, scontato. In origine ne veniva 8. Beh, adesso non ha importanza. Siete molto arrossata, sembrate febbricitante. Vi ho lasciata troppo a lungo nella stanza calda della mamma. Ma sapete che è molto lieta che siate stata qui. E Lady Cameron lo era, in effetti, nonostante le continue prediche all'indirizzo di Claire, che avevano fatto disperatamente contorcere come il tipico verme la povera Mrs. Gibson. Eppure era già qualcosa a ricevere strigliate da parte di una contessa. E quel piacere sarebbe rimasto una volta passata la preoccupazione. E poi Lady Harriet la coccolò più del solito per ricompensarla di quanto ella aveva sopportato nella camera della convalescente. E Lady Cuxhaven le aveva parlato con intelligenza, in una mescolanza di sprazzi di scienza e pensiero profondi, il che era stato davvero lusinghiero, sebbene non sempre comprensibile. E il buon Lord Cameron, allegro, gentile e generoso, era colmo di gratitudine nei suoi confronti per la cortesia dimostrata nel venire a trovare Lady Cameron, e la sua riconoscenza assunse la forma tangibile di un quarto di cervo, per non parlare della selvaggina più piccola. Ripensando a quella visita, mentre veniva ricondotta a casa nella magnificenza solitaria della carrozza delle torri, Mrs. Gibson trovò che c'era stata una sola grande costante difficoltà: il malumore di Lady Cameron, e decise di darne la colpa a Cinzia invece di considerare la verità che le era stata indicata spesso dai membri della famiglia di Sua Signoria, ovvero che l'origine della sua irritabilità era il suo stato di salute. Mrs. Gibson non aveva esattamente intenzione di riversare su Cinzia la responsabilità di quel disagio, né assolutamente di rimproverarla per una condotta tuttora non chiarita e che avrebbe potuto avere delle giustificazioni. Ma trovando la figlia seduta, tranquilla in salotto, sedette abbattuta sulla propria poltroncina e in risposta al saluto gradevole e pronto di Cinzia: «Allora, mamma, come stai? Non ti aspettavamo così presto. Lascia che ti tolga lo scialle e il cappello». Ella rispose dolente: «Non è stata una visita così felice da farmi desiderare di prolungarla. I suoi occhi erano fissi sulla moquette e il suo viso rimase il più possibile indifferente all'accoglienza rivoltale. Cos'è successo? Chiese Cinzia in completa buona fede. Tu, Cinzia, tu. Quando sei nata, non ho certo pensato che un giorno avrei dovuto sopportare di sentir parlare di te. Cinzia buttò indietro la testa e una luce rabbiosa le brillò negli occhi. Cosa c'entrano loro con me? Come sono arrivati a parlare di me? Tutti parlano di te e non c'è da meravigliarsene. Di certo Lord Kemnor sente sempre parlare di tutto. Devi prestare più attenzione a ciò che fai, Cinzia, se non vuoi che si chiacchieri sul tuo conto. Direi che dipende da ciò che si dice, osservò Cinzia fingendo una leggerezza che non provava. Prevedeva infatti cosa stava per accadere. Beh, comunque non mi piace. Per me non è gradevole sentir prima parlare Lady Kemnor del cattivo comportamento di mia figlia e poi venire sgridata a casa sua, della sua civetteria e del fatto che ha piantato un innamorato, come se io avessi avuto una qualche voce in capitolo. Ti assicuro che la cosa ha decisamente rovinato la mia permanenza. No, non toccare lo scialle. Quando andrò nella mia stanza ce lo porterò da me. Cinzia si trovava con le spalle al muro e sedette. Rimase con la madre, che continuò di quando in quando a sospirare sonoramente. Ti dispiacerebbe ripetermi cosa dicono? Se girano accuse nei miei riguardi, è bene che sappia di cosa si tratta. Ecco Molly. Mentre la giovane entrava nella stanza, rinfrescata dalla passeggiata mattutina. Molly, la mamma è tornata da Lettori, dove Milord e Milady mi hanno fatto l'onore di parlare dei miei crimini e della mia cattiva condotta, e io sto chiedendo alla mamma cosa hanno detto. Non pretendo di essere più virtuosa di altre persone, ma non riesco a immaginare cosa su un conte o una contessa abbiano a che fare con me, che sono piccola e insignificante. Non è stato per il tuo bene, esclamò Mrs. Gibson, ma per il mio. Soffrivano per me, perché non è bello che il nome di una figlia sia sulla bocca di tutti. Come ho detto prima, dipende in che termini sta sulla bocca di tutti. Se fossi sul punto di sposare Lord Hollingford, non dubito che tutti parlerebbero di me e né tu né io ce ne preoccuperemmo minimamente. Ma non si tratta di un matrimonio con Lord Hollingford. Perciò è assurdo parlare come se le cose stessero così. Dicono che ti sei fidanzata con Mr. Preston e ora rifiuti di sposarlo. E questo loro lo definiscono piantare in asso un uomo dopo averlo corteggiato. Tu desideri che io lo sposi, mamma? Chiese Cinzia con il volto abbampante e gli occhi chini. Molly era lì accanto, accaldata, senza capir bene, e rimase semplicemente dove si trovava, nella speranza di poter pacificare la situazione, raddolcirla o essere di qualche aiuto. No, rispose Mrs. Gibson, evidentemente turbata da questa domanda. Certo che no, ti sei legata a Roger Hamley, che è un giovanotto molto rispettabile, ma nessuno sa dove sia, o se sia vivo o morto, e se è vivo, non ha un penny. Chiedo scusa, ma so che possiede una certa fortuna, ereditata da sua madre. Non sarà molto, ma non è uno spiantato, e di certo guadagnerà fama e una brillante reputazione, che porteranno denaro. Affermò Cinzia. Ti sei legata a lui e hai fatto qualcosa di simile con Mr. Preston e ti sei cacciata in un tal imbroglio. Mrs. Gibson non avrebbe mai e poi mai detto pastrocchio, anche se era quella la parola che aveva in mente. Che quando si fa avanti una persona davvero desiderabile, di bell'aspetto e di ottimo carattere, proprio un gentiluomo e con l'aggiunta di un considerevole patrimonio, sei costretta a rifiutare. Finirai come una vecchia zitella, Cinzia, e mi si spezzerà il cuore. Penso di sì, convenne Cinzia quieta. A volte credo di essere il tipo di persona di cui sono fatte le vecchie zitelle. Parlò seriamente con un velo di tristezza. Mrs. Gibson riprese. Non voglio conoscere i tuoi segreti finché sono tali, ma quando se ne parla in tutta la città penso di dover esserne informata. Ma mamma, io non sapevo di essere un argomento di chiacchiere e persino adesso non riesco a capire come possa essere uscita la voce. E io non più di te. So solo che dicono che sei stata fidanzata con Mr. Preston e avresti dovuto sposarlo e che io non posso rimediarvi se tu non hai scelto così più di quanto abbia potuto rimediare al suo rifiuto di Mr. Henderson. e tuttavia vengo costantemente rimproverata a causa del tuo cattivo comportamento. È davvero dura. Mrs. Gibson si mise a piangere. Proprio in quel momento entrò suo marito. Sei qui, mia cara? Bentornata, disse, avvicinandosi cortese e baciandole la guancia. Ma cosa c'è che non va? Lacrime? E desiderò con tutto il cuore di andarsene di nuovo. Sì, confermò la donna, alzandosi e aggrappandosi a un qualunque forma di comprensione a ogni costo. Sono tornata a casa e sto raccontando a Cinzia di come Lady Kemnor sia stata dura con me, tutto per colpa sua. Lo sapevate che si è fidanzata con Mr. Preston e poi lo ha piantato? Ne parlano tutti e lo sanno anche alle torri. Per un attimo gli occhi di Mr. Gibson incontrarono quelli di Molly e comprese ogni cosa. Atteggiò le labbra un fischio, ma non emise alcun suono. Cinzia aveva perso del tutto il suo atteggiamento di sfida da quando la madre aveva parlato a suo marito. Molly le si sedette accanto. Cinzia, cominciò lui molto serio. Sì, rispose la giovane dolcemente. È vero? Avevo sentito dire qualcosa del genere, non molto. Ma lo scandalo là fuori è sufficiente a far desiderare che tu abbia qualcuno che ti protegga, un amico che conosca tutta la verità. Nessuna replica. Alla fine Cinzia disse: Molly sa tutto. Anche Mrs. Gibson era stata ridotta a un timoroso silenzio dai modi gravi del marito e preferì non sfogare la propria gelosia al pensiero che Molly fosse stata al corrente del segreto da cui lei era stata esclusa. Mr. Gibson ribatté un po' austero, rivolgendosi a Cinzia: Sì, lo so che Molly ne è informata e che ha dovuto sopportare calunnie e cattive parole per amor tuo, Cinzia. Ma si è rifiutata di rivelarmi altro. Questo ve l'ha detto però, eh? Non ho potuto evitarlo, disse Molly. Non ha fatto il tuo nome, spiegò Mr. Gibson. Al momento credo pensasse di averlo tenuto nascosto, ma era impossibile non indovinare di chi si trattasse. Ma perché ha dovuto parlare, tanto per cominciare? Fece Cinzia amaramente. Il suo tono, la sua domanda suscitò l'ira di Mr. Gibson. Ha dovuto farlo per giustificarsi con me. Io ho saputo che la reputazione di mia figlia era in pericolo a causa di incontri privati avuti con Mr. Preston. Sono venuto da lei per averne una spiegazione. Non c'è bisogno di essere così ingenerosi, Cinzia, visto che tu hai civettato e hai piantato un uomo fino al punto di trascinare il nome di Molly nel medesimo fango. Cinzia sollevò il capo, chinò fino a quel momento e lo guardò. Voi dite questo di me, Mr. Gibson? Senza conoscere le circostanze, dite questo di me. Egli aveva parlato troppo aspramente, ne era conscio, ma non riusciva ad ammetterlo in quel preciso momento. Il pensiero della sua dolce e innocente Molly, che aveva sopportato tanto con pazienza, gli impediva di ritrattare in quell'istante le proprie parole. Sì, lo dico, ribatté. Non puoi immaginare quali malvagie interpretazioni la gente dia alle azioni di una ragazza che travalicano anche solo di pochissimo i confini dell'appropriatezza e della modestia. Io sostengo risolutamente che Molly ha dovuto sopportare un gravissimo peso in conseguenza di questo tuo fidanzamento clandestino, Cinzia. Mi rendo conto che possono esserci delle circostanze attenuanti, ma tu dovrai ricordarle tutte per scusare il tuo comportamento nei confronti di Roger Hamley quando farà ritorno a casa. Io ti ho chiesto di dirmi tutta la verità per poter essere in grado, fino a che lui non torna e non ottiene il diritto legale di farlo, di proteggerti. Nessuna risposta. Di sicuro c'è bisogno di una spiegazione, continuò il medico. Eccoti qua, legata a due uomini contemporaneamente a quanto sembra. Ancora silenzio. Di certo i pettegoli del villaggio non hanno ancora avuto notizia del fatto che tu abbia accettato la proposta di Roger Hamley, ma lo scandalo è gravato su Molly e invece avrebbe dovuto pesare su di te, Cinzia, per un fidanzamento segreto con Mr. Preston, che ha richiesto incontri in ogni sorta di luogo sconosciuto ai tuoi amici. Papà, intervenne Molly, se sapessi tutto non parleresti a Cinzia in questo modo. Vorrei che ti rivelasse tutto ciò che ha detto a me. Sono disposta ad ascoltare quanto ha da dirmi, dichiarò il padre. Ma Cinzia replicò: No, mi avete giudicata senza sapere. Mi avete parlato come non avevate il diritto di fare. Mi rifiuto di confidarmi con voi o di accettare il vostro aiuto. La gente è molto crudele con me. La sua voce tremò per un istante. Non pensavo che voi lo sareste stato, ma posso tollerarlo. E poi, a dispetto di Molly, che tentava di trattenere la forza, si divincolò e lasciò la stanza in fretta. Oh, papà! esclamò Molly in lacrime e attaccandosi a lui. Lascia che ti dica tutto! E all'improvviso si ricordò dell'imbarazzo di dover ripetere alcuni particolari della vicenda di fronte a Mrs. Gibson e si interruppe. Credo, Mr. Gibson, siate stato molto scortese con la mia povera figliola orfana, dichiarò Mrs. Gibson emergendo da dietro il fazzoletto. Vorrei solo che il suo povero padre fosse in vita e tutto questo non sarebbe mai accaduto. È molto probabile. Eppure non riesco a capire di cosa tu o lei possiate lamentarvi. Per quanto abbiamo potuto, io e mia figlia l'abbiamo protetta. Io le ho voluto bene. Le voglio bene, quasi come se fosse mia. Non voglio fingere di amarla tanto quanto Molly. Ecco, Mr. Gibson, non la trattate come se fosse figlia vostra. Ma nel mezzo di quell'alterco Molly sgusciò via e andò a cercare Cinzia. Pensava di portarle un ramo d'ulivo, una consolazione con le parole appena pronunciate dal padre. Le voglio bene quasi come se fosse figlia mia. Ma Cinzia era chiusa chiave nella sua stanza e rifiutò di aprire la porta. Aprimi, ti prego, supplicò Molly. Ho qualcosa da dirti. Voglio vederti, apri. No, rispose Cinzia. Non adesso, sono occupata, lasciami in pace. Non voglio sentire quello che hai da dirmi. Non ti voglio vedere. Ci incontreremo tra poco e allora. Molly rimase lì, ferma e zitta, domandandosi quale altre parole di persuasione poter usare. Un paio di minuti dopo Cinzia disse: Sei ancora lì, Molly? E quando lei rispose di sì, sperando che si fosse calmata, la stessa voce dura e metallica che esprimeva risoluzione e repressione esclamò: Vattene, non posso sopportare di sapere che sei lì ad aspettare, ad ascoltare. Vai da basso, fuori di casa, dove ti pare, ma vai via. È il massimo che puoi fare per me ora.